Il Falco e il Gabbiano presenta. Chuck si vola. Di Enrico Ruggeri. Oltre il giardino. Nel 1759 Voltaire scrisse quello che ancora oggi è considerato il suo capolavoro, Candido, un racconto filosofico, narra le traversie di un giovane puro e ingenuo che crede nella bellezza del mondo, nella bontà degli esseri umani, che si ritrova, dopo varie traversie, a dover riconoscere che il migliore dei mondi possibili non esiste, che il segreto della felicità è andare a coltivare l'orto. Naturalmente tutto questo ricco di metafore. Bene, proprio da questo orto, che in realtà nella nostra storia diventa un giardino, parte la nostra storia di oggi. Perché? Per l'uomo puro, il giardino, almeno sempre nella nostra metafora, il giardino è l'unico rifugio possibile. La nostra storia ha per protagonista un giardiniere candido, inconsapevole, ancora di più del Candide di Voltaire. Improvvisamente quest'uomo deve superarlo, questo giardino, si ritrova appunto oltre il giardino. Il protagonista della nostra storia si chiama Chance e di lui non sappiamo molto, sappiamo solo il suo nome, sappiamo che ha due grandi amori, il suo giardino che cura con tanto affetto e la televisione che è l'unico suo svago, la sua unica finestra sul mondo. A lui non interessa nulla di quello che c'è oltre il giardino e oltre lo schermo televisivo, tutto gli è sconosciuto. Peraltro, chance significa il caso in inglese, l'azzardo, la fortuna, l'occasione. E lui è il contrario della ragione, lui è un'irrazionalità figlia dell'ignoto, il non conosciuto che si prende gioco dell'oggettività, è la probabilità che prende il sopravvento sulla certezza. E intorno alla figura di chance la realtà prende contorni particolari, imprecisi, la verità non ha più importanza, l'esistenza è guidata dalla coincidenza. Chance abita in una casa sontuosa, mobili d'antiquariato, tende di broccato e poi c'è la sua cameretta, è a ridosso della serra, lì ci sono molte piante, lui si sveglia ogni mattina ancora addosso il suo pigiama di seta giallo, dà un po' d'acqua a ognuna di queste piante e mentre magari ascolta un bel concerto di musica classica in televisione. Poi peraltro la cosa non dura molto perché Chance ha l'abitudine di cambiare canale in continuazione, è un compulsivo, è alla ricerca di qualcosa che assorba la sua attenzione, il Muppet Show, i telegiornali, i film di indiani e cowboy, poi magari la pubblicità, poi i consigli del trucco, oppure quelli, non so, come mettere i piatti in lavastoviglie, come fare ginnastica, e c'è questo infinito nulla che definisce la sua esistenza, con i minuti che vengono scanditi solo dalla televisione. Il mondo che arriva è quello, è il mondo definito dalla televisione. E quindi Chance ha dei giorni perfettamente circolari, tutto inizia, si svolge, ruota attorno alla TV. Un giorno però accade qualcosa di tragico che cambierà tutto. Buongiorno Luis. È morto Chance. Il vecchio è morto. Ah sì. Non respirava più Chance. Era freddo, freddo come un pesce. Io l'ho toccato così per vedere. Chance. Siete sicuri di aver tempo da perdere? E perché già abbastanza? Allora, io gli ho tirato il lenzuolo sopra la faccia. Ma io non è di amici che ti voglio ammazzare. Oddio. Che mattinata. Sì, Luis. Sembra che stia per nevicare. Hai veduto il giardino? Sembra proprio che stia per nevicare. Oh, santa madre, figliolo! Ma siamo... È tutto quello che trovi da dire. Vedi, è così che... Quel povero vecchio è disteso lassù, morto stecchito. E a te è come se non facesse né caldo né freddo. Ma non sappiamo bene chi sia questo vecchio. La cuoca Louise gli dice che è morto, forse è il datore di lavoro, forse è anche un padre illegittimo. È l'unico punto di riferimento, è l'uomo che ha tenuto Chance sempre in casa, lo ha protetto dal mondo esterno, gli ha garantito una vita nell'ovatta. Quindi in teoria questa sarebbe la tragedia delle tragedie. Bene, Chance non sembra addolorato dalla sua morte, non realizza neanche questa mancanza, va nella stanza dove giace il corpo, lo guarda impassibile, accende la televisione, non ha capito che con quella morte la sua vita intera sta per cambiare irreversibilmente. E la cuoca Louise se ne va, non serve più. Chance rimane solo, rimane abbandonato a un destino che sembra terribile, perché non ha amici, non ha protezione, non conosce nessuno, non capisce realmente qual è e com'è il mondo che lo circonda. È assolutamente abbandonato a se stesso. E da quanto tempo esattamente lei vive qui, signor Chance? Ricordo di esserci stato sempre. Fin da quando ero bambino ho lavorato in questo giardino. Allora, è davvero un giardiniere? Le mie rose. Ci occorrerà qualche prova del fatto che ha sempre vissuto qui, signor Chance. Avete me? Sono qui. Lei era imparentato con il defunto, signor Chance? Io no, non credo. Guarda. Che bella macchina. Lei guida, signor Chance? Io non sono mai stato su un'automobile. Non è mai stato in macchina? No, non mi è stato mai permesso di uscire dalla casa. Ricapitoliamo, Chance ha trascorso la sua intera esistenza in quella casa senza uscire mai. Non sa leggere, non è mai andato in auto, non ha mai fatto la spesa, non ha mai scritto una pagina, non ha mai fatto i conti, non si è mai cucinato niente da solo, non ha amici, non ha una donna, non ha parenti, e adesso il vecchio è morto e Louise se n'è andata. Insomma, non ha più nessuno al mondo e non ha nessun tipo di strumento per affrontare il mondo. Tra poco non avrà più neanche una casa, perché lui ha confessato ingenuamente agli avvocati che la casa non è sua e non ha nessuna pretesa su questa casa, ovviamente non ha diritti, insomma deve andare via. Per la prima volta la sua vita così regolata in questa micro enclave all'interno del mondo, questa vita si scontra con tutto quello che c'è fuori, con la normalità, con una realtà che non ha mai fatto parte di lui, ma che esiste, una realtà che lo sta espellendo da tutto. Indossa il suo vestito migliore, si mette il cappello, ha un bellissimo cappotto di cashmere, prende il suo ombrello, prende l'unica valigia che ha, una bella valigia di coccodrillo, ci mette dentro i suoi effetti personali e esce da quella casa che lo ha protetto per tutti i suoi anni, che non sono pochi, perché lui ha una cinquantina d'anni, però ha un cervello che funziona come quello di un bambino piccolo. Esce, si trova a attraversare la strada, a vagare per il mondo. È un mondo duro, difficile, tra la spazzatura, il traffico, i barboni, la gente che si spintona, che corre. Lui osserva tutto con curiosità infantile, è assorbito da queste nuove sensazioni e non sa dove vivrà, dove dormirà quella notte, cosa mangerà. Per il momento non sembra preoccupato, non ha capito che è sull'orlo dell'abisso, e lui è abituato a avere la vita gestita da altri, quindi non si cura di nulla. Quando sente la fame, a lui pare normale fermare per strada una signora di colore come la sua Louise e dirle: io ho fame, mi fa da mangiare? E insomma l'incontro tra Chance e il mondo rivela proprio l'assurdità delle relazioni. Ci sono segnali discordanti, aspettative diverse, pregiudizi. La semplicità di Chance viene vista e scambiata per qualcos'altro a seconda dell'interlocutore. E non so, incontra per strada una banda di teppistelli e chiede se c'è un giardino da andare a coltivare nei paraggi. Quelli pensano che stia parlando di diciamo in genere, albergo per conto di qualche spacciatore, che il giardino sia un nome in codice per parlare di droga, e allora lo minacciano anche se non osano toccarlo perché è troppo elegante. E allora lui cosa fa? Tira fuori dal cappotto il suo telecomando, schiaccia il tasto e vuole cambiare canale. Non gli piace questa violenza verbale, questa aggressività, queste minacce, si spaventa. L'unica soluzione nella sua mente è far sparire l'immagine col telecomando, ripristinare l'armonia, tornare alla normalità. E naturalmente lui schiaccia il tasto e i teppistelli non spariscono, non c'è un altro programma, qui c'è la vita da vivere veramente. E poi lui si rivolge a un poliziotto e gli dice che gli alberi davanti alla Casa Bianca sono malati. Allora viene preso sul serio, perché la sua esteriorità, come dire, gli dà quell'autorevolezza necessaria, perché sembra un signore, sembra un ricco uomo facoltoso e di potere. Allora davanti alla Casa Bianca diventa credibile agli occhi della gente. E poi succede la stessa cosa quando qualche ora dopo c'è un'automobile che gli schiaccia leggermente la gamba. Ma dalla macchina con un autista esce una signora elegante che considera Chance un suo pari per come è vestito, e quindi, come dire, gli cuce addosso una narrazione, cioè si inventa un mondo che in realtà non esiste, lo considera uno, un suo simile, e gli accorda privilegi e garanzie, cioè lo ospita immediatamente a casa sua. Senta, ma perché lei non viene a casa nostra? La potremmo assistere meglio. A casa sua? Mio marito è stato molto malato. Abbiamo dottore e infermiere fissi da noi. Negli ospedali la gente è curata con un tale distacco. Acconsento. Bene, questo ci risparmierà tante inutili complicazioni. E sarà anche molto più simpatico per lei. David, andiamo diretti a casa. E, Jeffrey, per favore, vuoi telefonare a casa che stiamo arrivando? Sì, signore. Vuole qualcosa da bere? Oh, sì, per favore, ho molta sete. Grazie. Come si chiama, scusi? I miei fratelli sono i cani. Chance Giardiniere. Il signor Chance Giardiniere. A lei forse è parente di Basile Perdita Giardiniere? No, io non sono parente di Basile Perdita. Ah, sono una coppia veramente meravigliosa. La casa di questa signora è una ricchissima villa nei sobborghi di Washington. Chance viene visitato dal medico di famiglia, che teme che lui voglia denunciare la signora. Chance naturalmente lo tranquillizza, non ha nessuna intenzione, non sa neanche di cosa stiano parlando loro. E allora il medico lo invita a fermarsi qualche giorno per controllare che non insorgano nuovi problemi alla gamba, e lui accetta, si assicura che la proprietà abbia un grande giardino, e quella stessa sera Chance cena coi proprietari della villa, Eve Rand, la moglie, e il marito si chiama Ben Rand, lo scopriremo nel racconto, è un businessman influente, veramente uno della cupola, però è molto malato. E insomma c'è questa cena surreale, Chance che parla con i suoi codici e in realtà tutto quello che dice viene interpretato in maniera diversa, sembra che lui parli per figurazioni, e così si crea attorno a lui questa aura di rispetto che non combacia con la realtà. Spero tanto che la sua gamba non le impedisca di svolgere la sua attività, signor giardiniere. Ah, le serve una segretaria? No, grazie. La mia casa è stata chiusa. Chiusa? Intende forse cessazione dell'attività? Sì. Sono stati gli avvocati che l'hanno chiusa. E vi dicevo, è esattamente questo che intendo. L'uomo d'affari oggi è alla mercé degli avvocatini di certe commissioni. Ho paura che questo accada in ogni campo. Se continua così, coi loro interventi, la professione medica come tale finirà per cessare di esistere. Sì, per cessare di esistere. È proprio una vergogna. Insomma, sta nascendo un equivoco colossale. C'è questo mondo irreale nel quale vive Chas, del quale lui parla, e tutto quello che lui dice sembra parte, come dire, di una conversazione ermetica e molto elevata. Il grande inganno, che in pratica è una metafora della vita. Tutto quello che facciamo noi e che diciamo in realtà è frutto di un grande inganno, di una pirandelliana illusione collettiva che si sostiene proprio grazie a dei codici. Insomma, alla fine è difficile capire qual sia la linea di demarcazione tra un mondo banale che non riesce a percepire la differenza tra un povero di spirito e una persona intelligente, soprattutto all'interno di questa storia. Oppure possiamo anche dire che la semplicità contiene una profondità, perché la semplicità spesso va, come dire, al centro della questione e non ci gira attorno. E poi Chang è sempre gentile, anche se ai limiti proprio del nonsense. Tutto questo viene interpretato ovviamente come la prova che lui è un gentiluomo che sta attraversando un momento difficile, ma che ha le caratteristiche, gli attributi di una persona di mondo, una persona influente, una persona intelligente, una persona di potere. E tutte queste caratteristiche, alla fine caratteristiche che gli altri vedono in lui, giustificano qualsiasi strana di Chance, e tutto questo porterà a conclusioni veramente particolari che scopriremo assieme. Chuck si vola oltre il giardino. Stiamo raccontando la storia del giardiniere Chance, che è stato condotto dal caso all'interno della villa di uno degli uomini più influenti d'America. È conosciuto da tutti. Lui, col suo candore e col suo non sapere nulla del mondo, perché ricordiamoci che Chance è stato catapultato in un mondo nuovo dopo aver vissuto tutta la sua vita all'interno di una villa come giardiniere. E c'è questo incontro tra i due uomini. La semplicità, che rasenta l'imbecillità in realtà, di un uomo che però, parlando di giardini, parlando per metafore, acquista via via credibilità, autorevolezza e affetto da parte di chi lo sta ospitando. Chance è gentile, sembra un uomo d'altri tempi, veste abiti di ottima fattura e quindi in qualche modo viene considerato per quello che non è. C'è anche da dire che quando due persone parlano, in realtà inconsciamente desiderano che l'altro sia d'accordo, che sia un amplificatore delle sue idee. Per cui quando questo potentissimo Ben Rand parla con Chance, accetta le sue risposte così vaghe, così brevi, le accetta perché le legge all'interno dei suoi schemi, e quindi queste risposte stanno, secondo lui, rafforzando le sue idee. Io stavo pensando di costituire un fondo finanziario di assistenza. Di un po', Chance, tu non avresti qualche idea a questo riguardo? No. Riluttante a parlare, eh? Beh, posso anche trovarlo logico. Dopo che un uomo ha perduto tutto, l'ira tende a bloccare la sua razionalità per un po'. Ma tu lavoraci a quest'idea. Irrigala. Fertilizzala. Io lo farò, Ben. Sì. Sono certo che ti germoglierà qualcosa tra qualche giorno. Io lo farò, Ben. Sì. Avete sentito Ben che parla di alta finanza, di fondi per assistere gli imprenditori che hanno perso tutto, perché lui pensa che Chance sia un imprenditore che ha perso tutto e dà per scontato che Chance stia capendo qualcosa, sia in sintonia con lui. Lo considera un saggio. I saggi a volte possono essere bizzarri, possono essere eccentrici, ma soprattutto parla per figurazioni che lo affascinano. Insomma, a un certo punto succede che il presidente degli Stati Uniti, amico di Ben, lo va a trovare, anche perché Ben è, abbiamo detto, è molto malato, e Ben presenta Chance al presidente degli Stati Uniti. E lei è d'accordo con Ben? Pensa che possiamo stimolare la crescita con incentivi temporanei? Fin tanto che le radici non sono recise, va tutto bene. E andrà tutto bene. Nel giardino. Nel giardino? Sì. In un giardino c'è una stagione per la crescita. Prima vengono la primavera e l'estate. E poi abbiamo l'autunno e l'inverno. Ma poi ritorna la primavera e l'estate. Primavera e estate? Sì. E autunno e inverno? Sì. Io credo che quello che il nostro intuitivo giovane amico intende dire è che noi accettiamo le inevitabili stagioni della natura, ma siamo sconvolti dalle stagioni della nostra economia. Sì, ci sarà la crescita in primavera. Signor giardiniere, le rendo atto che non sentivo una dichiarazione così ottimista e confortante da molto, molto tempo. Ammiro il suo solido buonsenso. Charles naturalmente è disinvolto col presidente, non fa cerimonie perché non ha capito la grandezza nella scala sociale del presidente degli Stati Uniti, e tutto questo viene interpretato come segno di abitudine al potere, di familiarità, e Charles diventa un potente tra i potenti. Le parole che lui dice sono lette dal presidente e da Ben all'interno del loro contesto e quindi vengono riempite di valore, per lui hanno un significato letterale. Lui parla del giardino e loro lo considerano un discorso di alta economia. Pensate che alla fine, nel discorso successivo, il presidente riporta le parole di Chance e le sue considerazioni sul susseguirsi delle stagioni, e così Chance diventa famoso, diventa quello che ha ispirato il discorso del presidente. I media lo cercano, lui magari si distrae, chiude il telefono in faccia a uno dei giornalisti che vogliono intervistarlo, e questo viene interpretato come un gesto di un potente, di un navigato, di uno che non si sbottona, che ha delle cose da dire ma non le dice. Lui in realtà non parla perché non sa niente, ma attorno a lui la gente pensa che lui non parli perché sa troppo, e Ben Rand ormai è soggiogato, affascinato da questo personaggio. Hai una grande virtù. Tu non stai a ricamare con le parole per nasconderti dietro. No, tu dici pane al pane. Ti ricordi di che cosa ti stavo parlando ieri sera? No, Ben. Oh, sì che te lo ricordi. Il mio progetto di assistenza finanziaria per gli uomini d'affari. Beh, io credo che tu sia l'uomo giusto per tenere le redini in un'istituzione del genere. Mi rendo conto, Ben. Sì. Insomma, Chance è un personaggio che interessa, i media americani si scatenano, alla fine viene invitato in uno show televisivo, lui partecipa con la tranquillità di uno che ha passato tutta la sua vita davanti allo schermo, dice dei commenti brevissimi perché quello sa dire, quello può dire, ma in realtà quindi intanto è perfetto per i tempi televisivi, è sintetico, e nessuno si cura troppo del contenuto perché sta dietro, come dire, al cronometro, e soprattutto sta dietro al personaggio che tutti pensano che lui sia. E anche la sua reticenza nel parlare è vista come la reticenza naturale di un uomo di potere, di uno che non vuole rivelare al popolino i suoi progetti. Insomma, il risultato è fantastico, e proprio in situazioni come queste diventa ancora più evidente questo rapporto falsato che si instaura tra quello che uno dice e come viene interpretato. Mi rendo conto che questa è una domanda a cui le sarà estremamente difficile rispondere, ma lei ritiene che noi abbiamo, per dirla con lei, un giardiniere molto bravo al lavoro in questo momento? Sì. Certe piante vengono bene al sole e altre crescono meglio all'ombra. Sembra ci sia bisogno di un bel po' di giardinaggio qui. Certamente che ce n'è bisogno, sì. insomma, c'è una psicosi collettiva. Chas viene preso veramente sul serio. I servizi segreti si preoccupano di indagare su di lui. Il presidente dice: ditemi chi è, voglio capire da dove arriva. Naturalmente non si trova niente sul suo conto, perché lui non esiste. Da bambino è stato preso, non si sa come, messo in questa villa nella quale probabilmente è nato, e tutta la vita, per 50 anni, ha fatto il giardiniere. E quindi non ci sono dati su di lui. Questo crea ovviamente scompiglio. Ci sono funzionari che cominciano a pensare che lui sia una spia russa. Per fortuna è protetto dalla sua amicizia con Ben Rand, lo abbiamo detto, uno degli uomini più potenti d'America. La sua partecipazione alla televisione, peraltro, viene vista anche da Louise, vi ricordate, la vecchia nera, la cuoca che l'ha accudito quando lui viveva ancora nella casa. Lei è come il bambino che vede il re nudo, e quindi è l'unica che ha la lucidità necessaria per pensare alla verità. Ho cresciuto quel ragazzo da quando si faceva ancora la piscia addosso. E che mi venga un accidente se ha mai imparato a leggere o a scrivere. No, signore! Era mezzo deficiente. Al posto del cervello aveva un pugno di fichi secchi. Soprattutto le pause. Una svista del Padre Eterno. Era cretino, come un papero. Posso dirlo vero che le sue pause sono... Guardatelo ora. Questa è senz'altro una delle interviste più difficili della mia vita. Sì, signore. Non hai che da essere un bianco in America per avere tutto quello che vuoi. Eh sì, Luisa alla fine ha ragione. Chas è la prova che in un paese come l'America, un paese che vive di esteriorità e di apparenze, alla fine chi si comporta in una maniera socialmente accettabile viene incluso automaticamente nella cerchia dei potenti. E non sorprende quindi che l'altra persona che comincia a dubitare di Chas sia il dottore personale di Ben. È un uomo di scienza, non è un uomo di potere. In realtà è anche forse uno che si sente un po' defraudato del fatto che Chas stia salendo nella considerazione di Ben e della moglie. Insomma, lui capisce, però per il momento tace, anche perché si accorge appunto che la moglie Eve, che è molto più giovane di Ben e che sta vivendo con fatica questo triste ruolo di infermiera di un vecchio moribondo, Eva si sente rinfrancata dalla compagnia di un uomo che lei considera di poche parole ma anche solido, saggio, equilibrato. L'affetto di Eva aumenta giorno dopo giorno, anche perché il vecchio Ben in qualche modo spinge la moglie a entrare in un altro ordine di idee, cioè lui sta per morire, lei in qualche modo dovrà rifarsi una vita, e lì c'è Chas, lei gli si offre e lui naturalmente non capisce, come dire, la rifiuta, in realtà non capisce neanche che lei gli stia facendo delle avance. Eve interpreta tutto questo come una forma di riguardo nei confronti di Ben, quindi ne rimane conquistata, cioè ancora più gentile l'uomo di quello che lei pensava, e così l'inganno continua. Chuck si vola oltre il giardino. Ben Rand è un uomo potente, ma alla fine della parabola della sua vita è molto malato, cerca un successore e pensa di averlo trovato in Chas, nel nostro giardiniere. È convinto che Chas abbia grande conoscenza del mondo del business e abbia una purezza d'animo che lo rende ai suoi occhi perfetto, e lui si sta prodigando per assicurare un futuro a questa nuova cosa, perché nell'area c'è questa nuova coppia, Eve, la sua giovane moglie, che in qualche modo deve ripartire, e deve ripartire, ripartirà da lui, da Chas, il giardiniere. Chas, io spero che tu resterai qui con Eve. Abbi cura di lei. Ti vuole bene. Vigila su di lei. È un fiore molto delicato. Un fiore. Sì, Ben. C'è tanto... È rimasto tanto da fare. Io ho parlato con i miei soci. Sono ansiosi. Molto ansiosi di conoscerti. E così arriva la morte che scende anche su Ben, anche i potenti scompaiono, finiscono il loro ciclo terreno. Però Ben muore contento, contento perché accanto a lui adesso c'è Chance, che è tranquillo di fronte alla morte, come abbiamo già visto nella morte del vecchio della casa. Lui non la capisce, non ne capisce la terribile profondità, non c'è traccia di angoscia in questa fine anche da parte di Ben, perché è convinto di aver trovato il migliore degli uomini possibili, è pacificato nell'animo. E anche il dottore alla fine, anche se ha capito, ha quantomeno il sospetto, ma più che un sospetto, che Chance sia solo un povero giardiniere, si piega di fronte alla profonda commozione che Chance dimostra per la morte di Ben. E arriva il funerale. Al funerale partecipa il gota della politica statunitense, della finanza. Il discorso viene tenuto dal presidente in persona. Chance è al fianco di Eva, ascolta le parole del capo di Stato, poco dopo si distrae, si allontana perché in realtà è più interessato dalla natura che non dall'umanità. Il presidente sta parlando e lui se ne va a giocherellare per i prati, ma intanto c'è questo nucleo ristretto dei potenti, questa eccellenza di personaggi oscuri che muovono il mondo, che si sta interrogando sulla successione, non tanto di Ben, ma dell'America. Stanno pensando chi potrebbe essere il nuovo presidente degli Stati Uniti. Le loro considerazioni sono tutte a favore di Chance, perché è discreto, è silenzioso, è gradito al popolo della televisione, ha la sua strana profondità, forse è anche malleabile. E inoltre Ben diceva: qualunque sia la nostra facciata, noi siamo... Che ne direste di Chance, giardiniere? Ma che ne sappiamo di lui? Nulla, assolutamente. Tutti i valori... Non sappiamo macca del suo passato. Appunto. Potrebbe essere un vantaggio. Spesso il passato paralizza un uomo, diventa una palla al piede, alimenta indagini. Fino a questo momento non ha detto niente che possa essere usato contro di lui. L'indice di ascolto per quella sua apparizione in TV è il più alto che abbiamo avuto. E la nostra vera funzione. Con il 95% a favore. E io sono apertissimo a quest'idea. Sarebbe un'autentica follia appoggiare questo presidente per un'altra legislatura. È proprio per questo che sono d'accordo con le ultime volontà di Ben. Io sono convinto, signori, se vogliamo avere in pugno la presidenza, la nostra sola unica chance è Chance Giardiniere. Ecco che si compie la parabola di Chance da giardiniere analfabeta recluso in questa villa per curare le piante a probabile capo di una nazione che peraltro è lobotomizzata e rimbambita davanti alla televisione, quindi che accetta passivamente tutto quello che viene propinato dalla classe dirigente. La capacità di Chance di essere distaccato ma anche compassionevole gli sta dando questo potere, che sta rasentando veramente il potere totale, il potere divino. Immaginate lui che si sta incamminando sulla superficie di un lago, quasi come fosse, non so, un Cristo risorto che cammina sulle acque, e lui in fondo è capace di scivolare sulle acque della vita, rimanendo puro, incontaminato, lontano dalle manipolazioni. Il presidente completa la cerimonia citando le ultime parole di Ben, che in fondo sembrano spiegare l'intera esistenza di Chance. Tutti gli scopi che ho perseguito presto li avrò raggiunti. La vita è uno stato mentale. Alla fine abbiamo assistito a uno dei colpi d'ala più strani tra quelli che abbiamo raccontato, un colpo d'ala fatto di candore, di equivoci, di apparenze, di assurdità, è tutto poggiato, insomma, sulla debolezza di un mondo che ormai dipende dai media in maniera totale, un mondo manovrabile che può finire anche nelle mani di un personaggio del genere. Se volete segnalarci altre vite su cui puntare i riflettori, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.